Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Qualcuno potrebbe pensare che sia semplice, ma caricare, posizionare e catalogare i prodotti in un magazzino è parte di un processo complesso e articolato che deve seguire criteri rigorosi. Dall'approvvigionamento all'imballaggio, alla consegna delle merci, tutto avviene infatti attraverso una serie di passaggi che caratterizzano il processo logistico e che, se mal organizzati, possono causare notevoli perdite di tempo e di denaro. Ogni anno, solo in Europa, ad esempio, si bruciano circa 100 miliardi di euro per le inefficienze legate alla logistica urbana. Si comprende dunque l'importanza di un apparato integrato e funzionale in ogni sua singola fase, sia per arginare i costi, sia per rendere i servizi più efficienti. È anche per questo che a Roma si è tenuto il primo gruppo di lavoro sulla logistica urbana, che metterà a punto un sistema sempre più smart e sostenibile. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. La logistica che, come avete ascoltato nella scheda iniziale, è un mondo davvero complesso e per il quale c'è bisogno di una grande professionalità. Uno degli aspetti più complessi di questo mondo è quello che riguarda la logistica urbana, cioè la distribuzione cittadina delle merci, talmente complesso che il Ministero ha avviato un tavolo di concertazione e di lavoro con le associazioni di categoria, ma anche e soprattutto con le varie istituzioni interessate, a cominciare dai comuni, per cercare degli standard da applicare per la distribuzione delle merci in città. Ne parliamo quest'oggi in compagnia del nostro ospite, Silvio Faggi, vicepresidente del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Faggi, proprio qualche tempo fa c'è stato il primo incontro di questo tavolo a cui l'Albo ha partecipato, soprattutto per rappresentare in qualche modo gli interessi e le esigenze del mondo dell'autotrasporto. Cosa è emerso da questo primo incontro? È emerso che sono stati fatti degli studi, direi, molto interessanti, che in parte hanno confermato quelle che erano sensazioni, informazioni che erano già in nostro possesso. In altri casi direi che hanno fatto venire a galla una situazione che addirittura è peggiore di quello che si potesse immaginare. Penso un dato solo al fatto che, ad esempio, nell'area di Napoli oltre il 50% dei veicoli che circolano nell'area urbana sono Euro 0 o addirittura anche di meno. E quindi... Ecco, vogliamo spiegare questo cosa significa dal punto di vista ambientale? Stiamo parlando di veicoli molto vecchi che ovviamente inquinano molto di più. Stiamo parlando di veicoli che hanno oltre 20 anni di età, che sono fortemente inquinanti, che non hanno nessun accorgimento per abbattere i fumi e le polveri sottili, e quindi veicoli che sarebbe molto meglio se non circolassero. Certo che sì, soprattutto meno, in città. Tanto meno in città dove, come dire, la concentrazione di questi inquinanti è assolutamente, in alcuni casi, molto elevata. Molto spesso si associano questi vecchi veicoli al cosiddetto conto proprio, cioè al possesso di questi veicoli da parte delle imprese private e non di imprese di professionisti, le cosiddette conto terzi, che fanno del trasporto la loro attività appunto lavorativa. È così o questi incontri hanno smentito questa notizia? No, i dati confermano questa cosa, viene ampiamente confermata ed è per molti versi anche, come dire, abbastanza comprensibile. Perché mentre per il conto proprio il veicolo è un accessorio, quindi anche il trasporto delle cose proprie è accessorio ad un'attività principale, magari di ben altra natura, di ben altra importanza, per l'autotrasportatore avere il mezzo efficiente è fondamentale, voglio dire, è il suo strumento di lavoro. Se il veicolo non funziona, l'imprenditore non guadagna, come la devo dire. Certo che sì. Ecco, molto spesso noi che viviamo in città vediamo i veicoli commerciali, i mezzi adibiti al trasporto delle merci quasi come un ostacolo e soprattutto come responsabili della congestione e del traffico cittadino. Quali sono invece le difficoltà che vivono le imprese che fanno questo tipo di attività proprio per distribuire le merci all'interno delle città? Chi deve fare distribuzione all'interno delle città è necessariamente andato alla ricerca del costo più basso, e il costo più basso oggi chi lo offre? Lo offre chi investe poco o nulla nel veicolo, quindi veicoli vecchi e obsoleti, chi offre la propria attività lavorativa, quindi la propria fatica e il proprio lavoro, ad un prezzo assolutamente inadeguato, assolutamente non congruo. Quindi basta guardarsi attorno nelle nostre città chi è che fa la distribuzione di pacchi pacchettini. Ci rendiamo conto che costruire un sistema che tenga conto anche invece delle esigenze ambientali, di vivibilità e quant'altro, non sarà affatto facile, soprattutto se pensiamo ai nostri centri urbani, ai nostri centri storici, che sono dei piccoli gioielli che tutti i giorni, certo, in qualche maniera, certo, vanno preservati. E non sarà facile, ma siamo sicuri che questa sia la strada giusta, quella della concertazione, dell'incontro, del confronto fra istituzioni centrali, come può essere appunto il Ministero, le singole amministrazioni comunali, ma anche i rappresentanti di questo mondo, il mondo dell'autotrasporto. Bene, ringraziamo Silvio Faggi, vicepresidente del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, che ci ha raccontato un po' cosa succede nella logistica urbana, nella distribuzione urbana delle merci. C'è però anche un'altra logistica, quella industriale, quella che in qualche modo muove e fa muovere il paese. Ne parliamo in compagnia di Carlo Di Leo, che è il presidente di Legacoop Servizi del distretto Nord-Est, quindi un distretto produttivo sicuramente particolare, quello del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, per intenderci. Ecco, innanzitutto, quali sono le difficoltà che si trova ad affrontare chi va a proporre alle aziende una logistica appunto in conto terzi? Le difficoltà sostanzialmente sono due. In un territorio come quello del Nord-Est, che era fatto di piccole e medie imprese, di imprenditori che si erano fatti da sé, e una è di carattere culturale. Quindi un terzo soggetto, l'operatore logistico, che deve convincere l'imprenditore e l'impresa, far sì che questo terzo soggetto entri in casa sua e autonomamente gestisca il servizio di logistica. L'altra difficoltà, in un territorio che confina con altri paesi, soprattutto dell'est europeo, e che deriva da operatori che fanno contratti di lavoro con operai che provengono da questi paesi dell'est, che sono ovviamente più bassi di quelli che è il costo rappresentato, certo, dai nostri contratti collettivi. Certo, del resto il Veneto e soprattutto il Friuli Venezia Giulia sono dei territori dove il fenomeno del cabotaggio abusivo, quindi l'esercizio abusivo della professione di autotrasporto anche da parte di vettori esteri, è un fenomeno appunto particolarmente evidente e particolarmente pericoloso. Ecco, quindi voi avete una difficoltà proprio a dialogare con le aziende e a far capire loro che la terziarizzazione di alcuni servizi è praticamente fondamentale. Questo è un po' il discorso che facevamo prima con il vicepresidente Faggi a proposito della distribuzione urbana delle merci, dove ancora oggi c'è una forte presenza del cosiddetto conto proprio. Sì, mentre questa difficoltà ormai con la grande impresa è più o meno abbastanza superato, perché l'impresa ha capito che deve concentrarsi sui propri beni, sui propri prodotti, su quello che viene definito il suo core business. Ad esempio nell'elettrodomestico, dove anche come impresa operiamo, quell'impresa lì deve occuparsi di innovare il suo prodotto, che sia sempre di miglior qualità, che abbia un riscontro positivo poi con il consumatore. I servizi collegati all'impresa devono essere affidati a specialisti, i quali si sono specializzati su quel settore lì. La logistica credo che sia uno dei temi rilevanti e più importanti. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.